e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla un sorriso. E ascolto Cuore Denari, aggiungerei. Buona giornata a tutti. Questo che avete appena sentito è l'aforisma del buongiorno che ci ha mandato Luca ieri, quindi lo ringraziamo, ma se anche voi volete augurarci una buona giornata, scriveteci il vostro aforismo, un pensiero, insomma quello che preferite, via WhatsApp o via mail. Vi aspettiamo, sarete un po' la nostra carica, diciamo così, per iniziare la trasmissione col passo giusto. E allora mettiamoci subito in cammino e iniziamo con la nostra rassegna stampa di oggi. Dall'Università di Edimburgo e Cambridge arrivano buone notizie per tutti coloro che amano il cioccolato fondente. Per loro dormire sarà davvero dolce. Tutto merito del magnesio, un minerale di cui è ricco il cioccolato e che aiuta a regolare i ritmi sonno-veglia con i tempi giusti. Unica raccomandazione, scegliete quello fondente, non superate i 2-3 quadratini. Se volete avere l'elenco dei cibi ricchi di magnesio, andate sulle pagine di Cuore e Denari. Fedeli per convenienza, ahimè, sarebbe stato lo spirito di sopravvivenza a spingerci verso la ricerca di un unico partner. Secondo uno studio appena pubblicato su Nature, i ricercatori evidenziano che il passaggio dalla poligamia alla monogamia avrebbe un fondamento empirico che ruota intorno ai maschi e al loro timore di contrarre malattie. Passiamo alla musica. Axl Rose, voce e leader storico dei Guns, sarà il prossimo cantante degli australiani AC/DC. Sostituirà Brian Johnson, che ha una lacerazione al timpano. Questo impegno rimetterà sicuramente in forma il cantante, dato che negli ultimi tempi è abbastanza appesantito. Pensate che, secondo alcune stime, cantare su un palco per un concerto rock farebbe consumare oltre 1000 calorie. Per chi ha qualche chilo di troppo ma non ha la possibilità di esibirsi su un palco, niente paura, allora seguiteci se volete sapere come tornare in forma e che tipo di dieta scegliere. Non perdete l'appuntamento col dottor Massimo Gualerzi a partire dalle 11:00 800 24 00 24 per iniziare a raccontarci che tipo di dieta avete fatto e quali trucchi e strategie avete adottato, anche se non suggerite dal vostro medico. E a proposito di medici, ma soprattutto a proposito di esperti, gli esperti della Coldiretti ci suggeriscono invece oggi di fare attenzione ad alcuni prodotti. I broccoli cinesi, il prezzemolo del Vietnam, il basilico dell'India ad esempio. E questo è il podio dei cibi più contaminati contenuti nella blacklist presentata oggi da Coldiretti a Napoli e redatta proprio sulla base delle analisi condotte dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Allora il primato va ai broccoli cinesi, con la quasi totalità dei campioni risultati irregolari, il 92% per la presenza di residui chimici. A seguire c'è il prezzemolo del Vietnam con il 78% di irregolarità rilevate e il basilico dall'India, fuori norma in ben 6 casi su 10. Da Coldiretti, insomma, mettono in guardia sul cibo low cost che, per voler risparmiare pochi denari, potrebbe invece costare caro alla nostra salute. E restando sui denari, passiamo alle banche. Slitta alla prossima settimana l'approvazione dei decreti per lo smaltimento dei crediti deteriorati e per gli indennizzi ai risparmiatori penalizzati dal salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrare e Cari Chieti. Qualcuno sperava di trovarli già all'ordine del giorno della riunione di governo di stamattina e invece, cari amici, tutto posticipato. Sicuramente ci torneremo settimana prossima con una puntata di Cuore e Denari. E poi le pensioni. Ieri il ministro Padoan, in audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha detto che ci sarebbero margini per ragionare su una maggiore flessibilità dei pensionamenti. Molti l'hanno letta come un'apertura, anche dopo l'allarme lanciato dal presidente dell'INPS Tito Boeri, che ha previsto che nati negli anni 80 potrebbero andare in pensione a circa 75 anni. Naturalmente staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi. E infine ci sono buone notizie sul fronte mutui. I tassi sui mutui concessi dalle banche italiane sono scesi ad un nuovo minimo storico del 2,36% nel mese di marzo, dal 2,41% di febbraio. E questo il dato diffuso ieri, contenuto nel rapporto mensile dell'ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane. Quasi due terzi, il 66,1%, sono a tasso fisso. E noi parleremo anche di mutui e dell'acquisto di casa oggi a Cuore Denari, ma ci dedicheremo ad una categoria in particolare, quella dei single. Partiamo. È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna abbia bisogno di una moglie. Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. È quella che potremmo definire una discreta fortuna, ma anche un'ottima fortuna al giorno d'oggi, è l'essere in possesso di una casa di proprietà. I numeri rivelano che i single, siano essi celibi, nubili, separati, divorziati, ma anche vedovi, comprano e investono nel mattone. Questo non ne fa soltanto un buon partito nel caso siano in cerca di una dolce metà, ma li ha anche resi degli osservati speciali nel mondo del mercato immobiliare. Fino a poco tempo fa i single non riuscivano a movimentare granché il panorama delle compravendite immobiliari, ora invece i numeri raccontano qualcosa di diverso. Pensate che secondo le rilevazioni delle reti Tecnocase e Tecnorete, nel secondo semestre dello scorso anno le compravendite realizzate su tutto il territorio nazionale hanno visto nel 46,8% dei casi acquirenti single. È una percentuale questa decisamente interessante, che è già in linea con quella dell'anno precedente. Ma quale altre informazioni abbiamo su questi signori, su questi single? Che età hanno? Quanto possono permettersi di spendere per acquistare la casa? In che città? Questo segmento è particolarmente vivace. E voi che siete single e ci state ascoltando, vi siete potuti permettere di comprare casa contando solo sulle vostre entrate? Avete magari questo progetto oppure ci avete rinunciato? Raccontatecelo all'800240024. Potete mandarci anche un WhatsApp al 349-238-6666. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Paolo Righi, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Dottor Righi, intanto grazie per essere con noi. A partire dalla vostra esperienza, quali sono i single che comprano casa oggi? Che età hanno? Che lavoro fanno? Ci faccio un identikit. Ma guardi, oggi i single, come ha detto lei in apertura, sono la categoria dei single è abbastanza variegata. Però diciamo che l'età con cui si compra maggiormente casa sono dai 25 ai 33 anni, una parte molto minore dai 18 ai 23, spiegherò poi perché, e successivamente una piccola parte dai 45 in su. Sono persone che lavorano, sono appartenenti a diverse categorie, però la caratteristica è che quasi tutti questi single sono per il 75% aiutati dalla famiglia d'origine, quindi da genitori o da addirittura dai nonni. Anche perché sono abbastanza giovani, Righi. Sì, infatti il fenomeno è abbastanza diffuso. Perché? Perché oggi naturalmente la famiglia tradizionale, i matrimoni stanno calando, come numero di matrimoni stanno calando moltissimo, ma non cala invece il desiderio di acquistare casa. Vi è poi una emancipazione. Anche un po' di autonomia, naturalmente. Sì, certo, i giovani sono molto più emancipati, oggi anche con il fatto del lavoro, che non si nasce, non si lavora e non si muore più nella stessa città come facevano le vecchie generazioni. Oggi diciamo che a livello sociale c'è una certa distribuzione, insomma, del lavoro in varie città, e quindi da qui nasce l'esigenza di acquistare casa. Lei ha citato i matrimoni, no? Ma sappiamo che ci sono anche i single di ritorno, che magari provengono da un'esperienza di matrimonio, anche di convivenza. Quali criticità allora si riscontrano in questi casi, e soprattutto quali esigenze hanno quando cercano casa? Allora, le esigenze sono quelle di avere una casa, possibilmente un trilocale, perché naturalmente devono ospitare, laddove maggioranza devono ospitare i figli per il weekend, certo. Di avere vicino scuole, di avere, è un po' come una piccola famiglia, diciamo, no? È una famiglia anche quella, diciamo, anche se monoparentale. Quindi le esigenze sono molto diverse da quelle dei singoli. Invece i problemi che riscontriamo sono quelli delle capacità, soprattutto per questa categoria, di accedere al mutuo, in quanto poi vi sono tutte le convenzioni che hanno portato al divorzio, laddove vi dovessero essere pagamento di alimenti o altro, ecco lì la capacità contributiva al mutuo, diciamo, del single di ritorno, cioè del separato, è abbastanza difficile. Allora faremo naturalmente insieme al dottor Righi due conti, insieme a voi, se volete intervenire all'800 24 00 24, ci state già scrivendo i vostri messaggi su WhatsApp, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco. Cuore e denari. Singola all'ascolto, la puntata di oggi è dedicata a voi. Siamo partiti dalla vostra casa, raccontateci la vostra esperienza, vi sentite destinati a pagare l'affitto in eterno oppure siete riusciti a fare il grande passo dell'acquisto di casa da soli, vi hanno aiutato, come avete scelto, quanto avete speso, quali difficoltà vi siete trovati ad affrontare, faremo tesoro delle vostre esperienze ma anche dei consigli di Paolo Righi, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Dottor Righi, ma in media qual è la capacità di spesa di un singolo in Italia? Ma, gli acquisti che vengono effettuati dai single, diciamo che sono rivolti a monolocali, bilocali e trilocali. A seconda delle tasche. Esatto, ed è appunto della necessità, anche se poi ci sono figli o singoli di ritorno, certo. Meno, ma diciamo che la media in Italia, quindi ci sono somme abbastanza abbordabili, perché nelle periferie, escludendo appunto Roma e Milano, un bilocale si può oggi acquistare tra gli 70 e gli 80 mila euro. E quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie ai mutui che sono molto bassi, i tassi sono molto bassi, di accontentare queste persone che vogliono creare, insomma, diciamo, la loro vita da single. Ma ad un single, dottor Righi, vengono richieste più garanzie, ad esempio per la concessione del mutuo? Perché distinto viene da pensare che per un single sia più difficile fare questa scelta, no? Assolutamente. Ha un solo stipendio, quindi la rata del mutuo pesa di più. Ecco, adesso sicuramente con i tassi sono scesi, però insomma, che figura è? Viene guardato con un po' di sospetto, viene soppesato di più, dottor Righi? No, non viene soppesato di più, si guarda semplicemente la capacità contributiva. Di solito, per farle un esempio, un mutuo di 100.000 euro a tasso fisso per 25 anni al 2,25 comporta una rata di circa 400-440 euro al mese. E quindi equivalente a un affitto. Oggi per un single è possibile comprare casa. Le banche hanno allargato i cordoni della borsa e quindi guardano semplicemente il posto di lavoro, la capacità contributiva, ed oggi è più facile accedere per questa categoria all'acquisto, non ci sono grandi problemi oggi. Allora, dottor Righi, a Cuore Denari si dà informazione ma soprattutto consigli pratici. Allora, ad un singolo in ascolto, quali consigli lei si sentirebbe di dare per aiutarlo ad orientarsi nella ricerca della casa? Certo, allora la prima cosa da guardare è affrontare l'investimento immobiliare, perché di questo stiamo parlando, come un investimento a medio-lungo periodo. I tempi in cui le case erano assegni al portatore non ci sono più. Quindi bisogna essere oculati nella scelta della posizione, sì, e dell'immobile che si va a cercare. Quindi un'ottima posizione, che sia servito dai mezzi possibilmente, che abbia vicino tutti i servizi, perché oggi la gente, i futuri acquirenti guarderanno queste cose. Certo. Che sia efficientato energeticamente, quindi vedere attentamente la classe energetica, perché sempre più negli anni questo assumerà un valore anche nella compravendita. Sì, quale e deve essere? Guardi, possibilmente classe A o B, sappiamo che il nostro patrimonio è abbastanza vetusto, quindi certo. Se si vuole acquistare in classe G, si calcoli anche poi di efficientarlo, ci sono gli sgravi del governo possono fornire una mano in questa cosa, ma efficientare anche perché le spese di condominio e la gestione di un appartamento sono quelle che incidono di più. Poi ci sono la parte tecniche, assicuratevi, lo dico a tutti gli ascoltatori, le spese di condominio, prima di acquistare controllate le spese del condominio e guardate se all'interno del condominio c'è qualcuno che non paga, perché questo del condominio è un problema abbastanza serio della gestione. E che anche il precedente abitante dell'inquilino abbia già pagato tutte le spese condominiali, perché se no ci arrivano sul groppone. Però l'importante è controllare attentamente tutta la documentazione, questo naturalmente vi possono aiutare gli agenti immobiliari, però calcolare che questo è un investimento a medio e lungo periodo, quindi bisogna comprare bene, bisogna comprare in buone posizioni e bisogna guardare soprattutto qual è l'efficientamento energetico. Bisogna comprare in buone posizioni, qualche metro quadro in meno a vantaggio di una vicinanza ai mezzi o di una zona un po' più centrale, è questo che mi sta dicendo, Righi? Oggi è un mercato dove abbiamo molta offerta ed è un mercato molto selettivo, il nuovo mercato immobiliare, che è uguale a quello di 10-15 anni fa, esente bolla immobiliare, diciamo, guarda molto alla posizione, ai servizi, al contesto urbano e quello che vi è attorno all'unità immobiliare, quindi è importantissimo controllare tutti questi, diciamo, che una volta erano definiti accessori, e il posto auto o l'auto rimessa, questo è fondamentale. Molte volte si trovano anche affari, per l'amor di Dio, che però non hanno il posto auto o l'auto rimessa. Ecco, prediligere queste caratteristiche. Ci chiama Marco da Pavia. Buongiorno Marco, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a tutti. Ascoltando la trasmissione mi ritrovo molto sull'identikit della privilegiati che sono riusciti a comprarsi una casa di proprietà. Ho 39 anni difatti e ho cercato di trovare una soluzione dopo una separazione su una casa per l'appunto di proprietà, chiaramente ponderando la zona, abitando tra Pavia e Milano. Pavia è più abbordabile, certo. Permettendosi anche magari qualche metro in questo caso in più rispetto magari al voler vivere in centro città. Quindi lei è soddisfatto e si sente fortunato, Marco? Molto fortunato, perché bravo, chiaramente è vero, lo è. Fra la situazione lavorativa, il lavoro mi ha permesso anche di costruirmi un piccolo patrimonio per poi riversarlo sul mattone, che è il futuro, chiaramente è un futuro necessario, quello della casa. Grazie Marco e buona fortuna. Grazie molte, a presto. Dottor Righi, per chi però all'acquisto ha rinunciato o non si sente ancora pronto, c'è il mercato delle locazioni. In questo mondo come se la passano i singoli italiani? Sono in affitto per scelto, per necessità, scelgono brevi periodi o più lunghi? Quali sono le raccomandazioni e le indicazioni di un addetto ai lavori in questo caso? Il mercato della locazione è il primo passo per poi procedere all'acquisto, no? Storicamente prima si va in affitto, si capisce un po' qual è la vita da singolo e poi si approccia all'acquisto. Gli affitti sono in calo, anche gli affitti, abbiamo affitti oggi per bilocali che vanno dai 300 ai 400 euro, naturalmente escludendo Milano, Roma, sì, e le Napoli. Città, cioè i centri città, ma esatto, in 30 secondi mi dica quello che solitamente le persone non sanno. Ma guardi, allora, procedere all'affitto è importantissimo perché devono seguire qualche regola. Intanto guardare le spese condominiali, perché ancora, anche lì sì, incidono moltissimo. Poi vedere che il contratto sia un contratto possibilmente con cedolare secca, perché oggi la cedolare secca offre la possibilità di avere dei prezzi concordati, quindi dei prezzi molto buoni con dei vantaggi per i locatori. Sì, quindi e ultimo prima di ricercare contratti con cedolare secca e occhio alle spese condominiali. Dottor Righi, grazie. Se avete bisogno di informazioni, scriveteci. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. cuore e denari. Ecco qua, siamo ritornati insieme. Stavo ancora riflettendo sui single, che stanno diventando sempre più dei buon partito. Ma i single si danno da fare, comprano casa, però c'è anche l'altro lato della medaglia. Vivere da soli ingrassano gli uomini in misura maggiore delle donne, ma non c'è in realtà grande differenza. In generale, chi mangia da solo mangia peggio e spende di più. Allora, nell'attesa di incontrare il grande amore, che magari potrebbe aiutarvi anche a mangiare meglio e perché no a spendere un po' meno, potete andare sul nostro sito e trovare un po' di ricette che i nostri amici hanno preparato per noi. Parlo di uno staff di medici, ma anche di cuochi, anche stellati, nelle ricette di Cuore Denari Expo. Le trovate sulle pagine di Cuore Denari. E quindi mettetevi a cucinare, magari invitate qualcuno a cena da voi, perché condividere il momento della cena è molto piacevole, non solo a casa, ma anche fuori. Pensate che il trend del momento, per chi viaggia o per affari, insomma mangia da solo nei ristoranti, è proprio quello di organizzare dei tavoli comuni, e tra un piatto e l'altro chissà, potrebbe scoccare la scintilla. Nel caso fatecelo sapere. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi! No! Per te ci sono verdure al vapore e gallette di riso. Aspetta un momento. Ma io queste le ho sempre usate come sottobicchieri. Sono solo 35 calorie l'una. Pronto? Pronto? Pronto, Gusto? Dove sei? Allora, indipendentemente dallo stato civile, la primavera è il momento in cui si inizia a pensare alla prova costume. Non tutti, naturalmente, i più arrivano a 5 giorni dal fatidico momento, ma chi vuole fare le cose per tempo comincia a guardarsi intorno, a sentire qua e là i suggerimenti delle amiche, a leggere su internet, insomma, tanto per farsi un'idea, no? Il sogno di tutti però qual è? Quello di dimagrire dove si vuole senza fare fatica o non troppa. Voi ci state pensando? Diteci quale dieta state seguendo, vorreste seguire, ma soprattutto chiamateci e raccontateci qual è stato il trucco che magari vi ha fatto dimagrire. Insomma, se siete riusciti, attenzione, però si fa difficile la cosa, non solo a dimagrire, ma a mantenere il peso, seguendo anche alternative diverse, un po' strade un po' contorte, suggerimenti magari che andavano contro a quello che vi raccontava il vostro medico. Se però volete essere molto alla moda, sappiate che l'ultima novità in tema di dieta arriva, vabbè, come sempre dall'America, è la dieta del brodo di ossa, che sta letteralmente spopolando nella grande mela, perché sembra che, oltre a far perdere chili, aiuti anche a ringiovanire. Ve la riassumo. Non è che ve la consigli, però voglio che voi la sappiate. Allora, per 2 giorni non consecutivi della settimana, martedì e sabato, che so, si devono bere 6 tazze di questo brodo e fare poi uno snack molto leggero alle 7 di sera. Per 3 settimane però dovete evitare, bandire i cereali, i dolcificanti, i latticini, gli zuccheri in genere, tutti i cibi confezionati, per carità, le patate, non se ne parla neanche di vino e alcol, insomma, vedete voi. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, perché non c'è, non c'è sta, con cui nutrirsi però fino a sazietà. Insomma, ci avevano visto lungo. Siamo nell'86, Verdone e Pozzetto con il film 7 kg in 7 giorni. Insomma, la psicodieta ci stiamo avvicinando. In linea con noi oggi abbiamo il dottor Massimo Gualersi. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Esperto di prevenzione, riabilitazione cardiometabolica, direttore del Centro Supersalute e delle Terme di Salso Maggiore Tabiano. Tra l'altro anche autore di un libro di cui noi abbiamo parlato spesso, ma c'è anche un libro in arrivo. Dottor Gualersi, veniamo subito a noi. Questa tazza di brodo per ritrovare la linea. Le nostre nonne la consigliavano per ritrovare le forze, un po' come un ricostituente. Adesso torna sotto un'altra veste, per dimagrire e per far diventare addirittura più belli, per cancellare i segni degli anni, insomma un brodo miracoloso. Beh, il brodo brodo così detto, il brodo di ossa, no, è sicuramente innanzitutto, diciamo subito, ipocalorico, quindi più o meno 80 calorie a tazza, quindi sicuramente dal punto di vista calorico è ipocalorico, poi soprattutto se si fa meno di tutte le altre cose che vengono appunto consigliate e dover essere ridotte dalla dieta. È ricco di nutrienti sicuramente, magnesio, potassio, calcio, aminoacidi, ma anche ricchissimo, ed è questo che è un po' stato sdoganato negli Stati Uniti tra i VIP di collagene, dopo pensare che questo collagene entra direttamente nel sottocute e vada a ringiovanire la pelle, ecco, è un altro discorso, ecco. Però obiettivamente è ricco di collagene, è logico, questa è una dieta fatta proprio last minute dove se devi perdere qualche chilo in poche settimane può essere utile, dopo come ha già detto brillantemente forse non è l'ideale come alimentazione consapevole, però sicuramente immagino, visto come viene proposto, che sia efficace sulla perdita del peso. E Gigi ci scrive: quella del brodo mi sembra simile a quella di Fantozzi, ha proprio ragione, ma questa è l'ultima novità. D'altronde, dottor Gualerzi, lo sappiamo che le diete seguono le mode, no? Ci sono i classici, i capispalla, e poi ci sono le novità dell'anno. Lo sappiamo bene, noi lo ripetiamo, che i medici dicono di diffidare dalle diete che promettono grandi risultati in breve tempo, ma alla fine poi, spinti dall'esigenza di togliersi un po' di chiletti dell'inverno, si cede. Allora, io ho chiesto ai nostri ascoltatori di scriverci o di chiamarci per raccontarci la dieta, la strategia alimentare, il trucco che ha permesso di perdere peso e di mantenere il risultato, perché sennò non vale. Se io perdo 2 chili in una settimana e la settimana dopo li recupero tutti, siete esclusi. Quindi diteci le vostre ricette per perdere peso ma mantenerlo, e cosa fondamentale, per stare bene e quindi per avere anche energie. Allora, però, dottor Gualerzi, dato che di mode le diete seguono le mode, noi abbiamo fatto un elenco delle diete più gettonate, intanto voi ascoltatelo e diteci quale di questa dieta avete seguito, quale vi piacerebbe seguire, oppure se proprio avete inventato una strategia di sana pianta. La dieta del supermetabolismo, la dieta del gruppo sanguigno, la paleodieta, la dieta zona, la cronodieta, la dieta dissociata, la dieta mediterranea. Allora, dottor Gualerzi, facciamo un commento ragionato rapido, un bel blocchetto, sì. Mordi e fuggi. Obiettivo di una dieta è di farci dimagrire, ma anche di farci stare bene. Deve essere, Deborah ci direbbe, un investimento redditizio. Tra queste diete, quali sono quelle che rischiano di farci perdere tempo, soldi e salute? Allora, usiamo i colori del semaforo, no? Rosso, dieta da non fare, arancione da prendere un po' con le dovute pinze, raccomandazioni, e verde magari da seguire adottando qualche piccola modifica per renderla più, no, vicina alle nostre esigenze. Partiamo dalla dieta del supermetabolismo. Ecco, su questo metterei un arancione, quindi una via di mezzo, nel senso che ha degli spunti ottimi perché prevede una fase di detossificazione, prevede una fase di mantenimento giusta, no, basata sull'indice glicemico, e la parte intermedia, quella super iperproteica, starei un po' attento, quindi gli darei un arancione perché sappiamo che le diete iperproteiche non cozzano un po', però diciamo nel complesso mi sembra discreta come dieta. Allora andiamo alla dieta del gruppo sanguigno. Ecco, su questa metterei da una parte con il verde, cui si cura, subito un ascoltatore che mi ha scritto un messaggio su WhatsApp: io mi curo col gruppo sanguigno del dottor Mozzi, ho eliminato farine e latticini, ho 63 anni e sto benissimo, e ci auguro una buona giornata, e noi le auguriamo un'ottima giornata anche alla nostra amica, forse si chiama Emilia, se ho letto bene il messaggio. Allora, gruppo sanguigno. Io li metterei un verde e un rosso insieme, nel senso che alcuni gruppi sanguigni devono seguire, tra l'altro conosco bene Mozzi, nel senso anche l'alimentazione, e ci sono alcuni gruppi sanguigni che appunto mangiano molto bene, quindi obiettivamente. Quali sono? Sono i gruppi sanguigni appunto che non devono mangiare carne o comunque che non mangiano troppa carne, invece sono i gruppi sanguigni quelli che devono, perché questa dieta si basa sul fatto che in modo arcaico alcune persone avevano un dato gruppo sanguigno, e quindi se ci rifacciamo, e in questa è associata molto alla paleodieta, se ci rifacciamo al gruppo sanguigno che originava tantissimi anni fa, diciamo tantissimi anni fa mangiavamo principalmente carne cruda, carne di un certo tipo, o non mangiavamo cereali, quindi in questo caso escludiamo tutti questi. Ecco, se siamo di questo gruppo sanguigno, obiettivamente è un po' più complesso pensare di avere una salute continuativa, per sì. quanto escludendo alcuni alimenti probabilmente un beneficio almeno all'inizio, soprattutto gli alimenti elaborati ce l'abbiamo, però alla lunga quindi metterei da una parte verde e da una parte rosso, quindi qui sarei un po' una via di mezzo. Paleodieta, l'ha già un po' anticipata, ricordiamo, la paleodieta consiste nel... La paleodieta consiste nel mangiare tutti i cibi che l'uomo primitivo mangiava, quindi che l'uomo del paleolitico mangiava, quindi non essendoci quindi frutta caduta a terra, bacche e carne. Io devo dire che escludere in questo momento i cereali, ora spesso facciamo l'errore, lo diremo anche dopo, di confondere cereali con farine o confondere il pane fatto con la farina raffinata con tutti i pani fatti anche con le farine di cereali antichi o comunque integrali. Ecco, una dieta che preclude il fatto di mangiare cereali io non la promuovo, quindi direi rosso. Andiamo alla dieta zona? La dieta zona dico verde perché la dieta zona è stata la prima che tenendo conto degli ormoni e quindi di capire come funzioniamo e quindi di cercare di assumere alimenti che potessero andare a ridurre la produzione di quegli ormoni che sono dannosi come l'insulina. Ora molto spesso è difficile fare perché è stata inventata negli Stati Uniti e quindi dice di mangiare cibi che per noi europei, soprattutto italiani, sono un po' difficili da reperire per andare a bilanciare bene tutti i pasti, però nel concetto generale è un'ottima dieta. Vi do un'altra informazione: Barry Searce, che è l'inventore della dieta zona, è stato più volte ospite di Cuore Denari. Sulla nostra pagina trovate, se avete voglia, l'intervista che abbiamo realizzato l'anno scorso, quando, ma tornerà presto a trovarci, è passato di qui. Allora, andiamo alla cronodieta, quindi si mangia in alcuni momenti della giornata, sembra che ce ne siano alcuni più propizi di altri per assumere gruppi di alimenti. Certo, e diciamo che la cronodieta ottima, quindi verde, nel senso che noi sappiamo benissimo che la nostra cronobiologia produce ormoni che sono in grado di metabolizzare alcuni cibi, ad esempio i carboidrati nelle prime ore, le proteine meglio nella seconda, con un piccolo ammonimento, quindi diciamo la parte positiva e la parte negativa, anch'io sono fautore della cronobiologia, però associata anche alla individualità, quindi è vero che la cronobiologia, diciamo, classica, ideale, sarebbe quella che prevede carboidrati alla mattina, proteine alla sera, però ci sono delle caratteristiche individuali che possono essere vinte dalla morfologia di un individuo che ci dice che questa cronobiologia alterata in questo caso non dovrebbe essere assecondata quella appunto classica distribuzione del cibo, carboidrati e proteine, che è un po' la anche viene detta dalla dieta dissociata. Ecco, quindi, che a cui diamo, cioè dividere, no? Carboidrati a pranzo e proteine, sì, alla che sera. È un po' la stessa cosa della cronodieta, perché sì, sulla base della cronobiologia dice di dissociare, anche lì darei un arancione, nel senso che è proprio dissociata a partito preso, quindi dissociamo i cibi, non tiene conto della cronobiologia perché diciamo che non ce l'ha nella parola, anche se so che questa dissociazione deriva dalla cronobiologia, però se diamo il verde alla cronodieta diamo un arancione alla dissociata. E alla mediterranea? Alla mediterranea diamo un verde a quella però, vera, ecco, perché ecco, tenendo conto che se adesso lei mi facesse la domanda qual è la dieta mediterranea, io stesso che mi reputo uno studioso in campo farei fatica, perché oggi esistono tante diete mediterranee. Proprio in questi giorni a Miami si sono riuniti i maggiori esperti mondiali di dieta mediterranea, tra cui alcuni miei amici e colleghi, che stanno discutendo proprio per evincere un documento univoco per definire la famosa dieta mediterranea, che è fatta di cereali integrali, è fatta di pesce azzurro, è fatta alcune volte anche di proteine di origine animale, ma è fatto anche di olio, di acidi grassi polinsaturi, e questa è la vera dieta mediterranea. Un amico da Londra ci scrive, ci manda un messaggio via WhatsApp: a Londra va di moda la dieta del dottor Lemme. Vorrei il vostro parere, il suo, dottor Gualerzi. Ma io non da medico vi dico che ho avuto persone che hanno seguito la sua dieta, e se voi ci mettiamo come punto d'arrivo il fatto che del dimagramento, dico obiettivamente funziona. Quindi su che cosa si basa? La vogliamo perché no, è molto so famosa, io, però è una dieta che obbliga in un certo senso il paziente ad avere uno stretto rapporto con questo dottore, con questo nutrizionista, sì, con i quali avere contatti quasi quotidiani, che ti suggerisce proprio passo passo sul tuo menù. Cosa mangiare. Ora, dal punto di vista scientifico, per quanto obiettivamente abbia, non la riesco nemmeno a giudicare, ecco, faccio fatica perché lui è il tenutario di questa strategia e obiettivamente si fa fatica. I risultati però, i risultati si vedono, personaggi dello spettacolo hanno perso tanti chili e sono contenti, vediamo. Intanto voi raccontateci come avete perso peso. Torniamo un attimo alla dieta del brodo, che prevede questi 2 giorni non consecutivi di semidigiuno e poi una dieta leggera, ma varia, no? Questa sorta di organizzazione ci dà la sensazione di essere più liberi, di non essere tanto a dieta, cioè faccio 2 giorni di sacrifici, poi mi controllo e il mio peso ritorna in forma. Può essere questo una combinazione da suggerire a chi magari ha una vita molto, molto particolare, magari in viaggio per lavoro, non può stare a dieta, non può procurarsi sempre, no, le cose fatte per bene, poco condite, varie? Dottor Gualerzi. Sì, il vero limite è la mancanza di un'azione educativa, quindi diciamo gli altri 5 giorni che cosa facciamo, no? Quindi non è che per 2 giorni che facciamo i bravi possiamo condonarci tutto ciò che abbiamo fatto gli altri giorni, però tornando sempre a mettere la palla in mezzo e anche alzando l'asticella dal punto di vista scientifico, devo dire che anch'io lo cito spesso e comunque esistono molti lavori in merito, che l'italiano Walter Longo ha dimostrato proprio di recente con una, diciamo, su una rivista molto importante, come brevi fasi di digiuno, anche di diciamo alimentazione molto controllata, sono utili per prevenire addirittura il cancro in, certo, nei modelli sperimentali e anche per garantirsi sani in linea. Quindi queste brevi fasi detox, diciamo che questi 2 giorni del brodo possono essere viste come una fase detox, sono sicuramente molto utili, perché abbassando notevolmente l'assunzione di quei cibi più dannosi abbiamo un effetto benefico e catartico sull'organismo. Bisognerebbe agire anche sugli altri 5 senza pretendere che la gente diventi appunto un robot, un manichino o qualcosa di estremamente rigida anche la dieta, insomma agire però anche sugli altri 5. Ecco, in tempi non sospetti noi avevamo fatto proprio una puntata con Walter Longo su digiuno e longevità la scorsa estate, quindi potete riascoltare la puntata dall'archivio del nostro sito, e sulle nostre pagine di Facebook e di Twitter trovate proprio il link diretto. Andiamo a Fabrizio da Udine e a Laura da Milano e poi parliamo del nuovo libro del dottor Gualerzi, una dieta che ci aiuta a guadagnare una linea ma una super salute, e come le mode anche gli alimenti vanno di moda. Dopo l'ananas adesso è il tempo dello zenzero, ma di molti altri. Ma poi parleremo anche delle condizioni che determinano o contribuiscono al fallimento di una dieta. Fabrizio da Udine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Complimenti per la trasmissione, grazie. Grazie. Come ha fatto a dimagrire? Allora, io ho seguito le istruzioni di un libro, non so se posso dire certo il titolo. La dieta grano zero del dottor Will, un cardiologo americano. Praticamente ho eliminato tutte le farine, soprattutto quelle raffinate. E non le mangia più, basta? Ha chiuso definitivamente? Sì, ho chiuso definitivamente, però integro con gli alimenti quelli per celiaci, quelli senza glutine. E allora, sì, allora io le dico subito, soffrivo di colite, gastrite, coliche renali, una sorta di agitazione. È sparito, perché? È sparito tutto, non so, e in più ho perso 15 kg. Fabrizio, allora mettiamo la ricetta di Fabrizio, andiamo a Laura da Milano, anche lei è riuscita a vincere la battaglia. Laura, buongiorno, qual è la sua ricetta? Buongiorno. Allora, dovevo perdere circa 8 kg, questo ho fatto 3 o 4 anni fa. Allora, la mattina mangiavo prima un po' di frutta e poi 50 grammi di pasta condita con tantissima verdura, fatta saltare un attimo con l'olio e l'aglio. Poi durante il giorno non mangiavo niente, io fra l'altro non mangio dolci perché non sono attirata, anche il caffè amaro. La sera mangiavo un po' di carne una o due volte alla settimana, pesce, uova, sempre con un po' di insalata o altra verdura. Senta, ma Laura, ma stava in piedi? Ma benissimo, adesso che chiaramente non sono più a dieta, mangio nello stesso modo, però di pasta ne mangio 100 grammi, sempre con la verdura. Allora, ed è soddisfatta, e lei sta bene, questo è il consiglio di Laura. Allora, io ho preso 50 kg, quindi direi che va bene. Allora, un altro ascoltatore ci scrive: io sto perdendo 2 chili al mese eliminando il grappino dopo pranzo e dopo cena. Totale 9 chili persi in 4 mesi. E ci scrive: fantastico, andiamo a sentire se anche la borsa è fantastica. Subito dopo insieme col dottor Gualerzi. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e Denari. Allora, cari amici, la ricetta è semplice ed è quello di cui stiamo parlando oggi col dottor Gualerzi, che risaluto, che è in linea con noi. Mangiare meno, mangiare meglio e muoversi di più, insomma, è tutto qua, no? Per recuperare il peso forma, per buttare giù qualche chiletto in più, al di là delle diete di moda che ci possono piacere. Adesso va molto quella del brodo di pollo, ci state chiedendo gli ingredienti, li trovate sul nostro sito, ci state chiedendo di darci delle indicazioni per il semidigiuno di Walter Longo, ne abbiamo parlato, anzi l'abbiamo intervistato ancora prima degli altri a giugno con un po' di anticipo. Questo è un vanto, tornerà presto a trovarci con una promessa, e quindi andate sulla pagina, trovate l'intervista come quella con Barry Sears, quindi andiamo proprio alla fonte. Dottor Gualerzi, ritorniamo a lei, il problema è che la teoria la sappiamo tutti, no? Poi quando dobbiamo metterla in pratica passa la voglia, oppure ci si rende conto che o si ha fame oppure non si ha magari l'energia e quant'altro. I nostri amici ci stanno suggerendo i modi in cui hanno perso peso a costo anche di grandi rinunce, come il primo ascoltatore che ha eliminato di tutto la dieta grano zero, ha eliminato e non ne mangia più e lui sta molto meglio. E poi è arrivata la nostra amica, che anche lei è soddisfatta. Vorrei un commento rapido, a cui aggiungo anche il commento di Giorgio da Gorizia: la mia dieta, tanto per cominciare, si tratta di pensare a cosa si è mangiato il pasto precedente e mangiare sempre diversamente. Ho perso 10 chili, questa l'aggiungiamo all'ascoltatore che ha perso 9 chili eliminando il grappino. Dottor Gualerzi, a lei. Ma io dico che sono degli spunti ottimi per ciascuno di noi, anche per chi si occupa di alimentazione, queste considerazioni. Volevo solamente fare una precisazione: ha tolto tutte le farine, no? Giusto per dare un messaggio corretto. Probabilmente il primo radioascoltatore aveva una gluten sensitivity, cioè voglio dire una sensibilità al glutine, perché anche i sintomi che diceva erano abbastanza classici. Non solamente i celiaci veri hanno disturbi da glutine, ma anche quelli che sono un po' sensibili. Logico che togliendolo si sentono meglio, oltre che a perdere peso. Però ci terrei proprio a dare questo messaggio, proprio terapeutico: i prodotti per celiaci non sono prodotti dietetici. Quindi non confondete i prodotti per celiaci per prodotti dietetici. I prodotti per celiaci utilizzano farine senza glutine, o comunque hanno sostanzialmente diciamo farine a cui sono state tolte o naturalmente senza glutine per creare, diciamo, alimenti, paste e via dicendo. Sono da prendere per chi è intollerante al glutine o per chi è celiaco, ma non vanno bene come alimenti dietetici. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché spesso c'è questa confusione, ecco, e non va confuso questo aspetto. Allora, dottor Gualerzi, lei ha preso degli spunti, no? Dall'intervento dei nostri ascoltatori. Sì. E ci dia lei qualche spunto, perché è uscito ieri il suo libro, La dieta super salute, dopo il grande successo del libro Super Salute, adesso Segue una dieta, il libro sulla dieta. Una dieta che, raccontandone un po' la filosofia, che cosa si ispira? Beh, sicuramente prende spunto dalle migliori diete, o comunque quelle più documentate dal punto di vista scientifico, e aggiunge un elemento che adesso vi dirò. All'interno di questa dieta ci sono brevi fasi detox, perché come abbiamo detto la fase detox è stata dimostrata a migliorare la salute, abbiamo appena parlato di Walter Longo e quindi ce lo insegna. 3 giorni anche i cambi di stagione, dove per fase detox, diciamo, c'è da riportare i cibi naturali, chilometro zero, quindi quelli stagionali, e quindi prodotti sostanzialmente di stagione naturali per detossificarsi. Per poi 3 giorni di fila, mangio cose? Per 3 giorni di fila ai cambi di stagione, quindi bastano adesso, 4 volte all'anno, 3 giorni, ok? E cosa mangi in quei 3 giorni? Dove sostanzialmente mangiamo verdura di stagione, dove mangiamo cereali senza, in questo caso, con poco glutine o con glutine non modificate, quindi sostanzialmente cereali in chicco, e dove mangiamo frutta e un poco, ma poche proteine di origine vegetale. Quindi una dieta abbastanza fatta di centrifugati, ma anche di insalate, anche di prodotti sostanzialmente naturali, quindi questa è una fase detox. Si beve molto, si beve almeno 1,5 litri di acqua al giorno, e quindi questa è una fase detox. Sulla restante parte dell'anno diciamo che si utilizza lo strumento della cronobiologia, quindi gli ormoni interni come girano, ma soprattutto riportati al personale, quindi diciamo in funzione dell'aspetto fisico che abbiamo, il nostro aspetto fisico esterno, la nostra morfologia ci parla di una alterazione della nostra cronobiologia e in funzione quindi del nostro aspetto esterno è più appropriato mangiare alcuni alimenti piuttosto di altri in alcuni momenti della giornata e quindi modifichiamo la cronobiologia sulla base dell'aspetto fisico individuale, quindi una cronobiologia ma anche una morfobiologia. La terzo elemento è che questo invece ci tengo molto, è la qualità degli alimenti. Fino adesso abbiamo parlato, mangiamo proteine, mangiamo carboidrati, però poi non entriamo mai nel dettaglio che proteine, che carboidrati. Ci rischia di far confusione, togliamo i carboidrati, togliamo tutto, ma in realtà il riso integrale non è da togliere, in realtà la quinoa non è da togliere, in realtà sappiamo tantissimi cereali, soprattutto in chicco, non sono da togliere. Sono da togliere, come diceva il radioascoltatore prima, le farine raffinate, questo sicuramente, quindi la qualità del cibo. E per fare questo mi sono appoggiato al mio grande amico Iorio, che è lo studioso di tutte queste zone blue zone in giro per il mondo, cioè le zone dove si vive di più, e abbiamo guardato come Scapagnini anche, no? Certo. Abbiamo guardato quali sono le zone dove si vive di più, che cosa mangiano, abbiamo mutuato questi alimenti, questi 14 gruppi di alimenti che sono quelli più presenti in queste persone che abbiamo dato. Ultimo elemento, sì? Che è quello che differenzia un po' tutto, è la consapevolezza. Ora, non voglio più sentire parlare, ho fatto la dieta è finita. Noi dobbiamo poco per volta trasformare lo stile di vita delle persone, trasformandolo, non sconvolgendolo. Non è che uno che legge la mia dieta da domani deve fare quell'alimentazione, deve poco per volta inserire fino a trasformarsi e diventare una persona diversa. La trasformazione fa sì che nel futuro ci siamo noi, anche noi del passato, quindi è portare nel futuro la nostra persona. In realtà il cambiamento è rinnegare tutto ciò che abbiamo fatto e questo non va fatto perché altrimenti la dieta finirebbe per essere confinata in 2 o 3 settimane, in 2 mesi e poi finisce lì. Invece quindi ci dobbiamo trasformare. Dobbiamo diventare anche un po' saggi. Sì. Qua non ci sono alimenti magici per farci diventare, dobbiamo un po' prendere in mano la nostra salute. A proposito di alimenti, dottor Gualerzi, anche gli alimenti seguono le mode. Super alimenti che vantano delle proprietà straordinarie, ad esempio l'ananas per anni è stato in cima alla classifica all'Eat Parade degli alimenti che brucia grassi, o meglio adesso si dice che riattivano il metabolismo, adesso sembra scalzato dallo zenzero. Che cosa sta succedendo al povero ananas? Non funziona più? Era una bufala? Funziona ancora, tanto che ci sono alcuni farmaci che utilizzano l'ananas come alcuni farmaci antinfiammatori. Teniamo conto di questo, tutti gli alimenti che salgono alla ribalta hanno però un minimo comune denominatore, così lo diciamo, sono alimenti antinfiammatori. Il problema è che molto spesso se non vengono testati non sappiamo che lo siano. Lo zenzero, così adesso magari vedremo anche la curcuma, altri alimenti che sono molto di moda adesso, sono stati scoperti avere una potente azione antinfiammatoria come all'ananas, tanto che l'ananas viene usata anche in alcune pillole, il principio attivo è la bromelina che va a decongestionare, a sfiammare anche per le articolazioni. Quindi il dimagramento ha a che fare molto con togliere l'infiammazione, quindi gli alimenti che sfiammano sono tutti degli alimenti, dei superalimenti che aiutano a perdere peso. E poi mi sembra di aver capito da tutte le ricerche, dalle cose che raccontate voi, che è importante inserire nella dieta gli alimenti che agiscono sul microbiota. Questo è che anche questo va molto di moda, è questo praticamente organo che ci portiamo dietro, che condiziona anche la risposta che ciascuno di noi ha nei confronti delle diete. Alcune diete non funzionano perché proprio il microbiota mette un po' una sorta di freno a mano, dottor Gualerzi, giusto? Assolutamente, ma anche questo ci dice di infiammazione. Quando siamo infiammati il microbiota muore o comunque diventa più rarefatto e diventa fatto abitato da popolazioni batteriche molto selezionate. Dobbiamo riabitarlo, tanto che una delle grandi mode oggi e sono tutti quei cibi fermentati, quindi vivi, che partono dalla fermentazione anche dai cereali o dai legumi, della soia, dal farro, no? E che possono appunto dar luogo a ad esempio il miso, no? Che va molto di moda anche in tutte le diete, perché tutti il kefir, cioè tutti i sostanzialmente i prodotti fermentati vanno a ripopolare questo microbiota, questa flora intestinale che processa il cibo, lo scinde, ce lo fa assorbire nella sua vera essenza o soprattutto allontana quelli che sono gli alimenti tossici. Quindi è un vero e proprio guardiano che sta a difesa del nostro organismo se è appunto attivo, e per alimentarlo, per renderlo attivo, dobbiamo mangiare cibi vivi, cibi freschi o cibi fermentati. Allora facciamo un rapido elenco per chi ci sta ascoltando, così facciamo un elenco della spesa. Lo zenzero l'abbiamo messo tra i cibi interessanti, tra una sorta di super alimenti. Quando si mangia? Allora, lo zenzero diciamo che lo possiamo mangiare nei centrifugati, quindi nelle radici, no? Possono essere tagliate anche le radici fresche e messe a centrifugare nei succhi. Si può anche, diciamo, grattugiare nelle insalate o comunque nelle zuppe. Può Io ho lo zenzero in polvere a casa, funziona? Si può aggiungere alle insalate, alle pietanze, eccetera? Oppure... Allora, tenete conto che funziona sempre di più però il prodotto fresco, quindi è sempre meglio prenderlo fresco. Devo dire che è una forma molto comoda, perché anche l'altro fratello dello zenzero, che è la curcuma o sorella, dire che si vogliano, sì, è stata molto criticata la sua biodisponibilità. Proprio prima della trasmissione ero in una riunione dove parlavamo della biodisponibilità della curcuma. Cioè, quanto ne arriva in sostanza, no? Perché non si può una mangiare una base lottata di curcuma. Ne arriva di più. Devo dire che per farla arrivare di più è appropriato associarla al pepe nero, perché ne aumenta molto la biodisponibilità, perché andrebbe il pepe a bloccare un enzima che normalmente scinde la curcumina, che è il principio attivo della curcuma, e quindi associare pepe nero alla curcuma ne aumenta molto la biodisponibilità. Quindi anche lì nelle insalate, nei primi piatti, con una spolverata di pepe nero ne aumenta molto la biodisponibilità. Andiamo a Natalia da Cremona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io ho chiamato perché anni fa ho fatto la dieta, penso, peggiore in assoluto, che è la tisanoreica. È stata... Su di lei ha avuto un effetto devastante? Ma no, ma allora, l'effetto è stato quello desiderato, nel senso che i chili li ho persi. Sì, infatti. Veramente difficile da fare, a parte il costo, ma proprio difficile a livello di sofferenza. Per cui quella l'ho fatta una volta e non l'ho mai più rifatta. Io purtroppo sono una peggiore utilizzatrice della dieta mediterranea, per cui mangio malissimo, malissimo, dolci, tutto quello che nella dieta tutto quello che non si dovrebbe mangiare, ma siamo tutti un po' così. Adesso ha trovato un po' il passo giusto? Ma allora, io un paio di volte all'anno, una o due volte all'anno, faccio poi una dieta che nell'arco di 2 mesi, per cui anche con calma, mi fa perdere 6 o 7 chili, ma mangiando semplicemente normale, per cui proteine, pollo, bresaola, mangio l'avena decorticata, cosa che non avevo mai saputo cosa fosse, invece... Insomma, si restituisce, mangia meno e mangia meglio, e fa questi periodi 2 mesi, ogni magari 2 volte all'anno. Il dottor Gualersi, provi a sfruttare anche il consiglio che ha dato il dottor Gualersi nel cambio di stagione, questi 3 giorni di semidigiuno, dottor Gualersi, possiamo chiamare così, diciamo, di dieta... di detossificazione, perché si mangia lavorando, si mangia. Stare a digiuno, però sì, diciamo l'estremo è il digiuno. Io invece consiglio di mangiare alcuni tipi di alimenti. Perché diciamola tutta: sacchi vuoti in piedi non ce ne stanno. Se siamo in una beauty farm, magari è possibile, nella vita reale è un po' più complesso. Allora, dottor Gualersi, grazie. Ricordiamo il titolo del suo libro: La dieta super salute. La dieta super salute, una new entry, un modello alimentare che permette un po' di coniugare tutto il buono delle diete attualmente a disposizione. Dottor Gualersi, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, buona giornata. Adesso voi continuate a stare con noi, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi restate. Cuore e denari. Avete presente quando incrociate 2 begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Siamo tornati insieme, abbiamo parlato di single in questa puntata, li abbiamo accompagnati mentre acquistavano a casa, li abbiamo messi, abbiamo dato un po' qualche spunto per rimettersi a dieta, perché il single tende a mangiare di più e a mangiare anche un po', no, cibi un po' spazzatura. Naturalmente l'invito è un po' rivolto a tutti coloro che vogliono stare bene, ma la primavera è anche un'occasione non solo per pensare alla dieta alla prova costume, ma anche per rinnovare un po' il guardaroba, no? Potrebbe essere una buona idea, uno perde qualche chiletto, la figura si sfina, ecco che il vestito sta meglio. E sono sempre di più gli italiani, singole no, che per i loro acquisti scelgono i canali digitali. Ne abbiamo parlato anche ieri nella nostra rassegna stampa e in chiusura di questa puntata torniamo a parlarne con Roberto Liscia. Buongiorno, presidente del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, è un piacere essere qui con voi. Anche da parte nostra. Allora, il commercio elettronico, dottor Lisci, è sempre più di moda, no? Abbiamo parlato delle diete di moda, anche il commercio elettronico lo è. Sono sempre di più le persone che lo scelgono. Intanto diamo un po' qualche numero perché sentiamo circolare tanti dati, tante ricerche. Sappiamo che sui vostri possiamo fare affidamento. Sì, i numeri sono molto semplici. Tutto cresce, siamo cresciuti e stiamo crescendo vicini al 18-19% di anno in anno. Siamo arrivati 17-18 milioni di italiani che comprano online, sì. Quindi sappiamo che questi signori comprano con costanza. Di questi circa 11 milioni comprano più di una volta al mese, quindi sono acquirenti abituali. E sappiamo anche che il totale del commercio elettronico è di circa 18 miliardi di euro, poi possiamo fare delle distinzioni tra i diversi settori, il che significa che in media uno di questi signori che acquistano online acquista circa 1000 euro all'anno, che è una cifra abbastanza significativa perché è un po' sotto la media europea, ma neanche troppo, il che sta a significare che quelli che comprano online in Italia non sono tanto diversi da quelli che sono in Francia, in Germania o in Inghilterra. La grande differenza è che sono ancora pochi, nel senso che questi 17 milioni, 18 milioni di persone che comprano online sono ancora più bassi rispetto a quello che c'è nel resto d'Europa. Abbiamo ancora molti italiani che non si sono avvicinati a questo settore. E qui ci sono diverse ragioni. Nel senso ad che esempio? Beh, ci sono diverse ragioni, c'è ancora il fatto che ovviamente siamo un paese abbastanza vecchio, siamo un paese anche poco alfabetizzato sotto profilo digitale, molte persone, circa la metà degli italiani non usa ancora il PC, quindi in realtà è un paese che ha ancora uno zoccolo duro che è difficile in qualche misura da scalfire. Anche se lo smartphone e il telefonino stanno cambiando molto le abitudini degli italiani. Eh sì, perché sono sempre a portata di mano. Sì, esatto, sono comodi. Il telefonino è quello che non ha fatto né la scuola né la mamma, nel senso ha educato gli italiani ad avvicinarsi in maniera... Perché mi dice la mamma? Perché la mamma normalmente è quella più vicina al figlio, l'aiuta, lo fa studiare, il papà normalmente è fuori casa spesso e quindi la mamma è quella che si occupa di più dell'educazione. L'educazione, diciamo, degli italiani oggi sta passando dal telefonino. Dottor Liscia, torniamo a chi invece... acquista, no? Se dovesse un po' individuare le motivazioni di quei 18 milioni di acquirenti, ho segnato giusto il dato, di italiani, che scelgono il commercio elettronico, no? Quale ragione metterebbe sul podio? La comodità, il risparmio, il fatto di essere... Non c'è un'unica ragione, ce ne sono molteplici. Fino a qualche tempo fa la ragione era il prezzo, perché su internet normalmente si trovavano prodotti a prezzi più bassi. La ragione è che il prezzo è determinato dalla quantità di prodotti disponibili. È chiaro che internet è un negozio talmente ampio che è possibile comprare in maniera vantaggiosa. Oggi però le ragioni della scelta di questo canale sono che il canale mette a disposizione una varietà di prodotti che difficilmente si possono trovare in un singolo negozio. L'ampiezza della scelta è incredibilmente superiore, quindi oggi io metterei questi due fattori, il prezzo e l'ampiezza della scelta. In terza posizione metterei ovviamente il servizio, nel senso che non devo spostarmi, certo. Il prodotto mi arriva a casa. Risparmio tempo, ma risparmio tempo anche sulla ricerca del prodotto. Se io sono in metropolitana o sull'autobus, posso la mattina presto fare la ricerca che prima facevo andando in un negozio, magari perdendo tempo per andare in centro. Quindi il servizio è sicuramente un elemento importante. Ecco, vorrei chiedere a lei quali sono i settori maggiormente vivaci, ma gira una domanda naturalmente anche i nostri ascoltatori. Qual è l'ultima cosa che avete comprato su internet e soprattutto siete soddisfatti? 800 24 00 24, potete come sempre raggiungerci via WhatsApp inviando un messaggio al 349 238 6666. Dottor Liscia, quali sono i settori più vivaci? I settori più vivaci nell'ultimo anno, sì, perché questo cambia abbastanza nel tempo, sono stati sicuramente il turismo, viaggi, biglietteria, che ha avuto una crescita del 14%, l'informatica e l'elettronica di consumo, in particolare nell'ultimo Natale, che ha avuto una crescita vorticosa, con una crescita del 21% rispetto all'anno precedente, ma la cosa che sorprende tutti rimane l'abbigliamento, che è cresciuto del 19%. Gli italiani, più degli altri paesi, anche se questo è un fenomeno abbastanza generalizzato e ha sorpreso tutti noi negli ultimi anni, comprano abbigliamento, scarpe, vestiti, accessori online. E soprattutto una delle ragioni è che se uno poi prova il prodotto, prova la giacca e non gli va bene, Puoi rimandarla indietro. Ecco, lo diciamo ad Enrico che ci ha scritto un messaggio via WhatsApp dicendo ho preso un portacravatte. Ma Roberto da Modena ci scrive: se acquisto un prodotto in un sito, ipotesi cinese, come viene gestita la fiscalità? Dottor Liscia. Beh, la fiscalità è che se io compro, ho appena comprato proprio ieri un soffione da doccia su AliExpress, che è un sito cinese, la fiscalità ha preso quelli grandi, quelli che vanno di moda? Quelli grandi in ottone, però, in ottone da mettere fuori. Che bellezza, altro che doccioni, qua. Esattamente. Naturalmente, posso chiederle quanto ha speso? 32 euro. Buono, va bene. Bravo, ha scelto bene dottor Liscia, se no le consigliamo un esperto che le dava tutte le indicazioni. Dottor Liscia, io ho 30 secondi per chiudere, come ci salutiamo con un'indicazione concreta? L'indicazione concreta è fare attenzione a dove si compra, guardare che il sito sia conosciuto, rinomato e che abbia una solidità che consente di non fare acquisti a vanvera, sì, ed eventualmente se non si sa comprare dove c'è il sigillo Netcom che garantisce sicurezza e affidabilità. Grazie dottor Liscia, torniamo domani alle 10:30 con Deborah, buonissimo pomeriggio.